Cosa succederebbe se non si vedessero più i grandi numeri, le masse di fedeli, se non fosse più la chiesa di massa, la chiesa della maggioranza? La chiesa di massa può essere qualcosa di molto bello, ma non è necessariamente l'unica modalità di essere della chiesa. La chiesa dei primi tre secoli era una chiesa piccola, senza per questo essere una comunità settaria. Al contrario, non era chiusa in se stessa, ma sentiva di avere una responsabilità nei confronti dei poveri, dei malati, di tutti. Nel suo grembo trovavano posto tutti coloro che da una fede monoteista traevano alimento nella loro ricerca di una promessa. Già le sinagoghe, le comunità ebraiche presenti nelle città dell'Impero Romano, avevano costituito una cerchia di simpatizzanti esterni, i cosiddetti timorati di Dio, che si erano avvicinati alla fede ebraica e che ne testimoniavano la grande apertura all'esterno. Il catecumenato della Chiesa antica aveva una funzione simile. Persone che non si sentivano ancora pronte a una identificazione totale con la Chiesa potevano in una certa misura avvicinarsi per poi valutare se compiere il passo definitivo. Questa consapevolezza di non essere un club chiuso, ma di essere sempre aperti alla comunità nel suo complesso, è sempre stata una componente ineliminabile della Chiesa. E anche al processo di riduzione numerica che stiamo vivendo oggi dovremmo far fronte proprio esplorando nuove forme di apertura all'esterno, nuove modalità di coinvolgimento parziale di coloro che sono al di fuori della comunità dei credenti. Non ho niente in contrario a che persone che durante l'anno non hanno mai messo piede in chiesa vadano alla messa della notte di Natale o a San Silvestro o in occasione di altre festività, perché anche questa è una forma di avvicinamento alla benedizione del sacro, alla sua luce. Ci devono quindi essere forme diverse di coinvolgimento e partecipazione. La Chiesa deve aprirsi interiormente a coloro che stanno ai margini delle sue comunità.